Sono le ore 17:31 di giovedì 24 aprile 2025 e non l'ho mai fatto, cioè di dedicare un pendo delirio a una ricorrenza. Ricordo che in passato, tra i più antichi, vi fu una puntata dedicata all'8 marzo, però dopo così tanto tempo forse è il caso oggi di parlare del 25 aprile, proprio perché l'agenda mediatica è dominata da tutt'altro. Ma in realtà poi i due temi, la morte di Papa Francesco e il 25 aprile, non sono assolutamente così antitetici, anzi, no? C'è stata la polemica, per esempio, tra Giglioli e Cinzia Sciuto, che è la nuova direttrice di Micromega, che ha preso il posto dopo la decennale direzione di Paolo Flores dal CAIS. Cinzia Sciuto, che ho avuto anche il piacere di conoscere in occasione di una serie di tavoli di lavoro al MAM di De Finis tempo fa. Giglioli, che conosco da molto tempo, sono due persone che stimo per vari versi, per la loro libertà di pensiero, ma soprattutto, ecco, quello che apprezzo è che questa polemica tra loro due, che ha riguardato proprio Francesco, si è svolta in un clima straordinariamente civile che sembrava quasi dimenticato, per quanto le posizioni siano antitetiche, perché Cinzia Sciuto si oppone abbastanza fermamente a questo questa infatuazione della sinistra per Papa Francesco, che è esplosa naturalmente nei ricordi e nelle testimonianze che hanno immediatamente seguito la sua morte. Mentre Giglioli ha scritto un pezzo proprio su Micromega, anche lui, in risposta alla direttrice, che spiega come mai appunto Francesco è così importante anche per i laici e ha lasciato un ricordo così bello anche per i laici. Io non entro nel merito della polemica, mi limito a dire che forse definire, come ha fatto Cinzia Sciuto, il Papa che ci ha lasciato un reazionario e un misogino, ma forse è un po' eccessivo, banalmente perché mi limito a dire, non so quante persone conosciamo di 88 anni che abbiano una visione aperta del mondo come l'aveva Papa Francesco, e soprattutto persone che si impegnavano anche contro l'ambiente che li circondava, no? Per tutte le persone in difficoltà, individui e gruppi, e quindi anche minoranze. Poi è chiaro, come qualcuno dice, la Chiesa deve fare la Chiesa è un ente conservatore. Va tutto bene, però, ripeto, se guardiamo gli ultimi papi, mi pare di poter dire che Francesco sia quello che con più coraggio abbia preso in mano le grandi istanze sociali dei deboli e tutti i problemi legati alle disuguaglianze e alle discriminazioni che caratterizzano la nostra epoca. Però questo è il poco che posso dire nel merito della conversazione. Mi interessa molto più il metodo, cioè il fatto che una rivista storica della sinistra abbia potuto ospitare tranquillamente due posizioni così distanti in un clima civile. È qualcosa di molto raro e di cui bisogna quindi ringraziare ancora una volta Micromega e la sua direzione. Detto questo, il 25 aprile, che subito segue la morte del Papa e si interseca, no? Non solo dal punto di vista temporale, con una mossa abbastanza sorprendente, il governo ha istituito 5 giorni di lutto nazionale, quasi a voler appunto risolvere in questo modo d'ufficio il problema, l'eterno imbarazzo per tutto quello che riguarda la festa della liberazione, quando il governo è un governo di persone che hanno paura a dichiararsi antifasciste. quando la nostra Costituzione è per ferma espressione di uno dei suoi estensori più celebri, cioè Pietro Calamandrei, è una Costituzione antifascista. Ecco, qui ci sono davvero tutte le contraddizioni e gli imbarazzi di quest'epoca schiacciata nell'attualità, nell'eterno presente. Non riusciamo mai a vedere un avvenimento storico per quello che è, e non dovrebbe essere appunto un oggetto che viene distorto a seconda delle convenienze del giorno, no? Della misera attualità quotidiana, il misero confronto politico. È qualcosa che dovrebbe davvero avere una diversa profondità. Per me, per esempio, il 25 aprile è soprattutto un avvenimento storico, è un momento in cui si è verificata, diciamo così, il passaggio di un'intera visione della democrazia, visione dello Stato, dello stare insieme, che naturalmente non è una data, non è un tempo che abbiamo deciso noi, dove nel noi metto i noi democratici. È una data a sua volta stabilita dalla storia, stabilita dalle vicende belliche, e però sempre e comunque dobbiamo considerarlo come l'esito di una guerra civile, perché questa c'è stata, e la nostra Costituzione è la Costituzione scritta dai vincitori. E però questo non vuol dire che quindi oggi la riconciliazione significa dire ai vinti che erano dalla parte del giusto. No, i vinti erano dalla parte del torto. E quindi oggi noi, sobriamente, come è sempre stato, ma soprattutto solennemente, oggi, domani dovrei dire, ricordiamo questa giornata straordinaria, che è una giornata storica, che è entrata nelle vite di tante persone, di persone che hanno toccato con mano la storia, e possiamo anche considerarla la data da dove parte la ricostruzione. Perché sì, è vero, dopo il 25 aprile ci furono giorni molto duri, ci fu la fame, ci fu il mercato nero, ma fu anche il trionfo dell'arte di arrangiarsi degli italiani, all'inizio per sopravvivere, e poi dopo la firma dei trattati di pace per ricostruire questo paese con uno slancio ideale che poi questo paese non ha mai più ritrovato, e forse quello di cui avremmo bisogno oggi. La storia ci insegna che tutti gli slanci ideali che permettono di costruire istituzioni democratiche, di fare riforme come quelle che erano poi previste nella Costituzione, che poi sono state fatte però 20-25 anni più avanti, guarda caso negli anni 60 e 70, anni fondamentali, le vere riforme, lo statuto dei lavoratori, il divorzio, l'aborto, eccetera eccetera, anche il decentramento, anche le regioni, perché no? Però appunto ci vuole uno slancio ideale che nasce quasi sempre da un grande trauma. Quindi adesso secondo me quello che dovremmo imparare è forse ritrovare uno slancio ideale senza che ci sia un trauma, anche perché il prossimo trauma, lo vediamo con le guerre che insanguinano il mondo, potrebbe essere uno di quelli dai quali non ci si rialza più, e quindi a quel punto lo slancio ideale potrebbe passare in secondo piano.